con quasi la metà dei voti scrutinati, è in testa Susilo Bambam Yudhoyono, il terzo incomodo, presentatosi a scombinare i giochi dei due favoriti, la presidente uscente Megawati e l'ex generale Wiranto. Ma la conta dei voti dei 130 milioni di elettori nel paese musulmano più popoloso del pianeta richiederà ancora un po' di tempo, abbastanza per permettere una riflessione su un evento storico per l'Indonesia, con tutte le nubi che lo sovrastano. L'evento storico è l'elezione diretta del capo dello Stato in un paese che fino al 1998 era governato da una trentennale quanto brutale dittatura impersonata dall'ex generale Suharto, uomo dal volto sorridente ma dal pugno di ferro, padrone delle coscienze e dell'economia di un arcipelago che si estende da est a ovest per 5.000 chilometri e si allarga su 17.000 isole, tra loro molto diverse. Le nubi riguardano invece il futuro di questa fragile democrazia, uscita da 30 anni di dominio incontrastato dei militari e che però si è ritrovata adesso ad avere come candidati principali due ex generali. Yudhoyono, appunto, e il generale Wiranto, già attendente di Suharto, capo dell'esercito e ministro della difesa alla caduta del dittatore, personaggio controverso che una corte speciale di Timor Est ha accusato di crimini contro l'umanità per le stragi del 99-2000 durante il referendum per la secessione dell'ex colonia portoghese da Giacarta. I numeri dicono che per ora Wiranto non ce la fa, che al ballottaggio andranno Yudhoyono e Megawati, ma come saranno le alleanze per il nuovo voto di settembre? Come sempre, purtroppo, l'ago della bilancia è ancora un uomo in divisa. Emanuele Giordana, lettera 22 a Misnet.